sotto un manto di stelle, trova bella mi appare, solitario il mio cuor disilluso d'amor vuol nell'ombra cantare. Una muta fontana e un balcone lassù, o chitarra romana, accompagnami tu. Suona, suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami in sorretina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. Voce un po' velata, accompagnami in sorretina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più.